Niente, do il benvenuto come sempre a tutti i nostri ospiti. La biblioteca provinciale è qui in questa sede provvisoria dal 2002 in attesa della realizzazione del polo bibliotecario che molto probabilmente insomma, verrà realizzato fra 5-6 anni. Nel frattempo abbiamo deciso di favorire il più possibile l'incontro fra il pubblico, le persone, i lettori potenziali anche e il libro, organizzando settimanalmente, seguendo il calendario scolastico da metà settembre a metà di giugno, delle iniziative di promozione alla lettura, quindi dibattiti, incontri con l'autore. E questa serata è una serata particolare, abbiamo con noi appunto il Presidente del Consiglio Provinciale Mauro Minitti, che ringrazio. Grazie a voi. Della sua collaborazione, del fatto che abbia scelto la nostra biblioteca, e come moderatore Gabriele Di Luca, che ringrazio ancora perché ci accompagna spesso nelle nostre iniziative appunto di promozione alla lettura, con grande delicatezza e collaborazione. Ora, questa biblioteca la vedete a scaffale aperto, a spazi piccoli, però qui è esposto solamente un quinto di quello che noi possediamo, in realtà il resto è dislocato qui nelle vicinanze di un magazzino ben organizzato, per cui chiunque può vedere dai nostri cataloghi oppure semplicemente da casa, dal sito web, quello che noi mettiamo a disposizione del pubblico. Si può prenotare oppure dire semplicemente al bibliotecario cosa serve e noi lo procuriamo nel giro di poco tempo. Ecco, avete sulla sedia troverete così una piccola rivista, un po' un bilancio sociale di questi primi 10 anni di attività. A parte lunedì e martedì prossimi che siamo chiusi al pubblico per le festività, riprenderemo con le nostre iniziative poi giovedì 10 novembre, dove verrà presentato il libro del professor Colletti, di cui adesso non ricordo il titolo, ma è un'analisi matematica delle opere d'arte, quindi una cosa un po' particolare. Ecco, è interessante. Vi auguro una buona serata e vi porto anche i saluti dell'assessore Tomasini, che è il nostro presidente di biblioteca. Grazie, ci do la parola. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie Valeria. Io avevo pensato di cominciare in questo modo. Io farò un attacco abbastanza breve per segnalare una posizione non critica, ma una posizione di attesa, perché il tema che Mauro ha trattato è un tema che possiamo dire estremamente delicato, in realtà logico nell'anno del 150enario dell'Unità d'Italia, in quanto la bandiera rappresenta visivamente quella che è l'unità del paese, sono i colori del paese. Però questo 150enario non è stato e non è un anno di celebrazioni trionfalistiche come magari altri paesi riescono a fare, anche forse in maniera più retorica. È un anno estremamente difficile e giunge al culmine di una storia, quella appunto di 150 anni, che non è stato un crescendo rossiniano, è stata una storia estremamente travagliata e mai come in questo periodo, diciamo, sentiamo sulla bandiera e sull'unità d'Italia delle ombre abbastanza cupe. Io lancio una serie di citazioni, poi lascio la parola a Mauro che spiegherà le ragioni della composizione del libro, la struttura, quello che c'è dentro. Ho portato un libro che tutti conoscete, che si chiama Cuore. Anzi, l'ho portato nell'edizione che mi è stata tramandata dai miei genitori. Sa anche un po', diciamo, di cantina. Io in realtà l'ho tirato fuori di recente perché lo leggo ai miei figli con tutta la difficoltà di mediare a loro un linguaggio che oggi è fortemente desueto. Io su questo libro, diciamo, quando avevo 9 anni ho pianto molto. C'è un capitolo, un paragrafo che si chiama I funerali di Vittorio Emanuele. Quest'oggi alle 2, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò De Rossi, il quale si andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso: Quattro anni sono in questo giorno a quest'ora. Giungeva davanti al Pantheon a Roma il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, morto dopo 29 anni di regno, eccetera. Arrivano le bandiere a questo punto. Lo sguardo, l'anima di tutti trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli 80 reggimenti dell'esercito d'Italia portate da 80 ufficiali schierati sul suo passaggio. Poiché l'Italia era là, in quegli 80 segnacoli che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò e allora si chinarono tutte insieme in atto di saluto le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacere di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidardo. 80 veli neri caddero, 100 medaglie urtarono contro la cassa. Cioè, retorica, come dire, a piene mani, un'Italia giovane che aveva bisogno di un ufficio pedagogico, forse necessario per tenere insieme, cementare il paese, dargli dei miti, delle narrazioni unificanti, e è maestro lui. Noi possiamo misurare già tutta la distanza che ci separa da questo tipo di prosa. Vado velocissimamente avanti e trovo una citazione di Giosuè Carducci, discorso celebrativo del primo centenario del tricolore, Reggio Emilia, 7 gennaio 1896. Sii benedetta, benedetta nell'immacolata origine, benedetta nelle vie di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre nei secoli. Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci nel santo vessillo, ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all'Etna, le nevi delle Alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù, onde la patria sta e si augusta. Carducci. Anche qui retorica, grande convinzione e grande celebrazione. Pasolini, 27 dicembre 1962, anche lui parla di bandiere. Pasolini ha scritto forse uno dei libri col più bel titolo, no? Le belle bandiere, un bellissimo titolo. Pasolini però è rappresentante, diciamo, sicuramente non di uno spirito patriottico particolarmente acceso, è un comunista, anche se un comunista atipico, e quando ricorda le bandiere scrive, nel libro poi di Mauro c'è un accenno non a Pasolini ma a qualcosa di simile all'inizio, e su tutto lo sventolio, l'umile, pigro sventolio delle bandiere rosse. Dio, belle bandiere degli anni 40, a sventolare uno sull'altra in una folla di tela povera rosseggiante, un rosso che traspariva violento con la miseria delle tovaglie, dei copriletti di seta, dei bucati delle famiglie operaie, ma col fuoco delle ciliegie, dei pomi, violetto per l'umidità, sanguigno per un po' di sole che lo colpiva, ardente rosso affastellato e tremante nella tenerezza eroica di un'immortale stagione. Articolo 12 della Costituzione. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali dimensioni. Nel 2001 il Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi, quando celebra il 140° anniversario dell'Unità Nazionale a San Martino della Battaglia, dice: adoperiamoci, questo lo posso fare anche bene perché ho l'accento di Vormesca, adoperiamoci perché ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono. Ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso risorgimento. Il tricolore non è una semplice insegna di Stato, è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia, nei valori della propria storia e della propria civiltà. Chiudo però con un comunicato stampa 25 settembre 2011, il Messaggero. Bossi, quelli che mettono fuori il tricolore sono somari che mangiano e bevono. Quindi sono somari che mangiano e bevono. Quindi Ciampi e tutti gli altri. Come la mettiamo? Dopo fai altre domande? No, perché bisogna vedere il tempo che... Allora, beh, la mettiamo che questo libro non nasce per i 150 anni dell'Unità d'Italia, devo dire la verità, nasce un po' prima, nasce a metà dell'anno scorso, quando ancora appariva lontano tutte le celebrazioni dei 150 anni d'Italia. E ci tengo anche a sottolinearlo, non perché si possa poi pensare che si voglia, no, speculare su questa celebrazione per fare un libro sul tricolore. Quanto paradossalmente per il motivo inverso, cioè noi siamo giunti all'Unità d'Italia grazie anche alla storia del nostro tricolore. Sono stati i tanti vessilli tricolori, che prima li chiamavamo vessilli, la bandiera diventa dopo, i tanti vessilli tricolori a fare la Unità d'Italia, tant'è vero che fino al 1861 noi troviamo ovunque dei vessilli tricolori. Dal 1861 ad oggi l'Italia poi registra sostanzialmente tre bandiere, che sono quella dello stemma sabaudo, la nostra attuale e quella che c'è stata nel periodo della Repubblica Sociale Italiana. Quindi è la bandiera italiana che ha fatto sostanzialmente l'Unità d'Italia. Ma appunto non è con questo libro che si vuole celebrare, per carità io non mi tirerei indietro nel farlo, l'Unità d'Italia. Si vuole proprio celebrare l'elemento più importante, più unificante per un popolo, non solo per il popolo italiano, anche per un qualsiasi altro popolo, il popolo tedesco, quello austriaco, quello cinese, che è proprio la bandiera. E credo che questo sia anche un valore che noi tutti dobbiamo riscoprire, in modo particolare i giovani ai quali il libro era, è rivolto in maniera diciamo più sostanziale. Non si pensa molte volte alla bandiera come ad un vessillo dietro al quale ci sono stati tanti sacrifici. Si vede la bandiera come se fosse un insieme magari di tre stoffe di colori diverso che rappresenta una nazione. Certo, però quella nazione per nascere, per formarsi, per svilupparsi ha richiesto sacrifici, che sono i sacrifici che tutti noi conosciamo, partono dalla presa a Bastiglia, quindi da Napoleone che arriva in Italia e poi si chiudono, no, non si chiudono perché continuano anche domani, dopodomani. Cioè i sacrifici di chiunque ama, apprezza e si è sentito rappresentato dal tricolore. Bisogna anche ammettere che nel nostro Stato, nella nostra nazione, c'è stato qualcuno per molto tempo che quasi si è vergognato del tricolore italiano. Se non fosse stato per Ciampi, il presidente Ciampi, a rispolverare diciamo il significato e il valore del tricolore, il tricolore era, torno a ripetere, un qualche cosa di poco importante per molte persone. E mi ricollego a quanto diceva lui quando ha letto Pasolini, almeno ha dimostrato di leggere il libro, perché adesso lui parlava prima Pasolini, no, delle bandiere rosse, eccetera. Il mio attaccamento alla bandiera italiana si può dire che nasce, adesso non voglio usare la retorica di Amicis, però diciamo che nasce in giovane età, o meglio ho capito in giovane età che il tricolore aveva una sua funzione. E vi spiego, vi narro quello che ha portato a questa mia convinzione che è scritto all'inizio di questo libro. C'era ancora il mio papà, che è morto a 42 anni, io avevo 9 anni, eravamo a tavola assieme, mamma, papà, mio fratello ed io, e papà era un ufficiale dell'esercito, quando è morto era capitano d'artiglieria, reggino, quindi aveva dentro di sé tutti i valori della terra del sud e non solo, indossava questa divisa che aveva un significato, per lui non era solo un lavoro, era il sudore che poteva portare quella divisa, era un nipote di due zii decorati con le massime medaglie a valor militare, Tito Minniti e Leopoldo Minniti, e mio fratello, che aveva in quel periodo 8 anni, chiede a tavola, appunto a cena, mio padre: sai papà qual è la bandiera dei lavoratori italiani? E appunto mio padre, che aveva tutto questo bagaglio di cultura, di ideali che ci ha comunque passato, mio padre dice: certo, è il tricolore italiano. E mio fratello dice: ah no, ti sei sbagliato, è la bandiera rossa. Figuriamoci appunto questo povero uomo che, di mio padre, che aveva tutta un'altra impressione e convinzione. E lui, da calmo quale è sempre stato, perché non ricordo mai che abbia mai alzato la voce, se non nel periodo della sua malattia, disse: chi è questo che ti ha detto questa baggianata, la bandiera dei lavoratori italiani, il bianco, rosso e verde, eccetera, eccetera, eccetera. A dirlo mio fratello era stato il suo maestro di scuola, un giovane socialista, uno di quelli che appunto, no, magari allora registrava come più importante non il tricolore italiano ma altre bandiere, come poteva essere la bandiera rossa, che chiamava il nostro Stato magari non con il nome patria, no, ma con qualche altro nome, a modo di sminuirlo. E allora capì da quel momento che questo insieme di stoffa, come lo chiamavo io, insomma, potesse avere un certo tipo di significato. Poi certo, mamma ci ha tramandato negli anni a seguire praticamente tutti questi valori, e quindi anche il valore della bandiera. E bisogna riconoscere anche che questa per noi è la bandiera della nazione, ovviamente, è la nostra bandiera degli italiani, ma non possiamo nemmeno pretendere che tutti i cittadini, e quindi le minoranze linguistiche, si possano riconoscere in questa bandiera, ma è anche attraverso proprio i valori espressi da questa bandiera che queste minoranze linguistiche oggi sono tutelate e salvaguardate. Quindi la bandiera italiana è, così come qualsiasi altra bandiera, un insieme appunto di valori e di significati. Poi tu parli di Bossi, giustamente, e delle sciocchezze che dice. Ricordiamo che fino a qualche mese fa Bossi era stato sostanzialmente l'unico politico, dico fino a qualche mese fa perché qualche mese fa è stato eguagliato in questo dall'Aiva Klotz, se non erro, a essere condannato per vilipendio alla bandiera italiana. Avvenne nel 2001 attraverso il Tribunale di Como, no, evidentemente non gli è bastato, ma anche perché purtroppo, io su questo sono forse molto più severo di Gabriele, anche perché purtroppo la nostra legislazione è poco severa nei confronti di coloro che non rispettano appunto la bandiera, che per me è l'elemento fondamentale e unificante del nostro paese. No, la nostra il codice penale si esprime, io non vorrei adesso metterla, diciamo, leggere questa vicenda che secondo me è grave. Poi secondo me è grave non tanto perché ora stiamo parlando poi di persone forse che non presenti in sala, non so se ci sono dei simpatizzanti della Lega in sala, è grave per l'incoerenza, no? Perché bene o male stiamo parlando di persone che siedono nel Parlamento della Repubblica, nel Senato della Repubblica, percepiscono onori e anche stipendi, ma soprattutto onori di rappresentanza del popolo italiano, ma non se ne sentono parte e si prendono la libertà di dileggiare anche in modo estremamente pesante i simboli che invece accomunano gli altri. L'articolo 292 del codice penale dice: chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. La multa può essere aumentata fino a 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza di una cerimonia ufficiale. Si va anche in galera con una reclusione fino a 2 anni se viene intenzionalmente distrutta, dispersa, deteriorata, resa inservibile. Vabbè, quindi in realtà le leggi ci sono, ma non dovremmo, secondo me, penso anche secondo te, arrivare alla coercizione. Dovrebbe essere un'adesione, diciamo, onesta, e chi non aderisce onestamente a questo, chiamiamolo, ideale, a questa configurazione simbolica, dovrebbe perlomeno avere la coerenza di non far parte, delle istituzioni che invece si riconoscono in questo tipo di... Però se dici così, allora anche i rappresentanti della Volkspartei non dovrebbero... Io non è che concordo molto con te su questo, perché proprio perché... Ma dai rappresentanti della Volkspartei non mi sembra siano mai giunte delle manifestazioni... No, però non si riconoscono, no? Tu prima parlavi che non si riconoscono, no? Ma non la dileggiano, come... No, no, quello no, indubbiamente no. Io credo che, Tony Petre, tutti, tranne, no? Qualche parlamentare, se non tutti i parlamentari leghisti, hanno un approccio molto diverso, no, nei confronti della bandiera, e su questo secondo me è una riflessione da fare, perché io sono d'accordo sul fatto che comunque sia, no, puoi anche non riconoscerla, ma appunto non devi dileggiarla. Bossi l'ha fatto una volta, l'ha fatto seconda volta, ci sono stati anche altri parlamentari della Lega che lo hanno fatto. Poi sai, il limite del vilipendio è difficile da individuare, no? Perché dice: indiscutibile il significato pesantemente offensivo e la connotazione manifestatamente dispregiativa delle espressioni utilizzate dall'imputato, cioè deve essere molto soggettivo la valutazione che viene fatta sulla questione. Però io poi non sono giudice, quindi non voglio entrare nel merito. Io credo però, scusami, che noi oggi paghiamo ancora un po' questo allontanamento che c'è stato dal significato proprio della bandiera. Cioè, noi veniamo da una cultura, molti vengono da una cultura in questo nostro paese, come dicevo prima, in cui la bandiera non aveva il significato che comunque ha oggi, perché oggi tutti, sostanzialmente, a parte di cui abbiamo parlato prima, no? Tutti comprendono a destra e a sinistra, insomma, no? Quale sia il significato della bandiera italiana. Noi paghiamo proprio invece un periodo di allontanamento che è coinciso dalla fine della seconda guerra mondiale fino sostanzialmente ai primi anni 90, di allontanamento proprio dal valore bandiera. Mentre negli altri paesi noi vedevamo, Cecoslovacchia la bandiera che veniva issata contro l'invasione russa, in Ungheria la bandiera ungherese che veniva, in Polonia quella bella bandiera bianco-rossa, no, di Papa Wojtyla e di Walesa, no, contro. Ecco, da noi in Italia abbiamo utilizzato la bandiera italiana quando facevamo bella figura ai mondiali o qualche manifestazione sportiva, però non più di questo. Quindi noi abbiamo perso per tanti anni, e queste sono le generazioni più vicino alla mia, insomma, io ho 48 anni, no? Si è un po' perso proprio questo legame, no? Che poi è difficile riallacciare, ma sono convinto che dopo i 40 anni si diventa saggio, quindi io sono già sulla strada buona. Sei già incamminato. Sì, sono incamminato. No, io a questo proposito però voglio rilanciare una cosa, adesso mi faccio, prima Valeria diceva che sono sempre gentile, ed è vero, sono molto gentile. Ecco, continua a essere. Sono molto gentile, però pur in questa straordinaria gentilezza che mi contraddistingue, prima abbiamo, come dire, io sono d'accordo con quello che hai detto, ovviamente condivido appieno la tua posizione sulla Lega, e credo la condivida chiunque, anche senza essere animato da particolare spirito patriottico, semplicemente si rifà a principi di coerenza. Ma nella campata storica che tu hai tratteggiato velocemente, cioè dalla fine della guerra agli anni 90, dopo che, diciamo, fino a quando Ciampi con un atto coraggioso per certi versi, ma coraggioso fino a un certo punto, conoscendo la storia di Ciampi, da dove viene, non è il coraggio, è un coraggio anche logico, però diciamo, parlando, se vogliamo, a tutti gli italiani in questo modo, avrebbe potuto sorprendere la parte di quelli che forse in quel momento si sentivano a lui più vicini, sto parlando ovviamente del mondo della sinistra, che ha sempre avuto invece un rapporto contraddittorio con i valori dell'identità nazionale, fino però a lì, perché dopo poi secondo me la storia un po' si rovescia, anche questo sarebbe interessante da esaminare, ma il punto è questo, no? E adesso ti do due, come dire, due scosse elettriche, due piccole scosse elettriche. Il primo problema è quello che all'indomani della guerra la bandiera cade nel fango, perché diciamo l'identificazione tra Italia e il regime fascista crea un problema di identificazione, prima di tutto esterno, cioè quelli che guardano l'Italia e quindi identificandola col fascismo mettono, diciamo, la nazione italiana sotto la campata del nazionalismo, e quindi si tratta di qualcosa di critico. È qualcosa che ha vissuto anche la Germania, cioè anche i tedeschi, la psicologia dei tedeschi potrebbe essere vista come sotto il motto del nazionalismo ferito. Era evidentemente logico che dopo il fascismo i valori nazionali avrebbero subito una crisi. Ma poi arriviamo ai nostri giorni, perché al di là della retorica sulla quale possiamo forse... Io non sorrido, per dire la verità, perché la retorica ha un suo valore, i simboli hanno un loro valore. Però la retorica si sostiene attraverso la coerenza di certi principi. Se noi abbiamo una classe dirigente che non onora il ruolo di classe dirigente, è chiaro che avviene uno svuotamento, è chiaro che avviene uno svuotamento. E allora lì, ecco perché è interessante l'evoluzione che ha avuto il simbolo e l'adesione a questo simbolo, dopo che per anni, per certi versi, erano state le forze chiamiamole di destra, movimento sociale, che hanno cercato di salvare l'onore della bandiera, alla fine abbiamo la sinistra, pur la sinistra attuale, dispersa, debole, indebolita, smarrita, che si attacca alla bandiera attaccandosi, diciamo, all'onore superstite di una nazione la cui classe dirigente invece spinge nel fango, perché insomma non c'è bisogno di citare l'ultimo esempio imbarazzante di Bruxelles, dove, diciamo, il nostro capo di governo suscita le risate, ma suscita risate perché il suo comportamento non è certamente all'altezza di rappresentare. Quindi sulla Lega ti potevi dissociare più facilmente, penso sia giù. Qui non è un po' più problematico, cioè come si fa? La tua è una valutazione tua con la quale io posso non concordare, sì. Ovviamente, quindi se penso, tu parli, no, del oggi come oggi è quasi la sinistra, no, che poi però vorrei uscire da questo diciamo da questo confronto più politico, no, che sta prendendo la piega, che forse non interessa neanche persone. Però tu dici la sinistra forse oggi che cerca di tenere in alto, si aggrappa a bandiera, però è anche la sinistra che è la che va in piazza a bruciare le bandiere degli altri stati, come la bandiera americana. Allora io ti posso rispondere, no, che la bandiera di tutti gli stati deve essere rispettata. Non è nemmeno quello un bel esempio, no? Voglio dire, quindi la bandiera nazionale è la tua, ma tu devi rispettare anche le bandiere degli altri. Invece concordavo con te sul fatto che il nostro paese esce dilaniato, no, dal ventennio fascista, dilaniato proprio nei rapporti, no? Al di là dello sfascio generale, insomma, ma dilaniato proprio nei rapporti, che c'è una presa di distanza, anche se poi per 50 anni mi sembrano un po' troppi, la verità, dalla bandiera tricolore, e che infatti è sempre stata solo la destra per tanti anni, fino al 90, a portare e a innalzare il tricolore italiano nelle piazze, no? Perché quando si andava alle manifestazioni, piazza del popolo, ovunque, insomma, Del MSI c'era la bandiera italiana, quando si andava alle manifestazioni del PC c'erano le bandiere rosse, no? Quindi, però torno a ripetere, credo che poi questo interessi poco alle persone, nel senso che è una coda, no? Della questione sulla bandiera italiana. Io credo che possa interessare di più, se mi permetti, anche spiegare un attimo come nascono i tre colori, no? Perché noi stiamo parlando di questi tre colori, il verde, il bianco e il rosso, non sappiamo nemmeno quale sia l'origine di questi tre colori. Il Carducci, nel centenario della prima bandiera tricolore, scrisse che praticamente il verde era legato alle nostre colline, il bianco alle nostre nevi, il rosso al sangue dei tanti martiri caduti per questa bandiera. È ovviamente una immagine romanzata, perché nel 1794, quindi 5 anni dopo la presa della Bastiglia, Bastiglia che oggi non esiste più, a Parigi ci sta questa piazza dove c'è un crocicchio di vie che dimostra come da lì parte tutto, la nuova Europa, se vogliamo, parte di là. Ecco, nel 1794 due studenti, Giambattista De Rolandis e Luigi Zamboni, due studenti bolognesi, schierati contro il potere papale, decidono di organizzare insieme ad altri studenti una sommossa contro il Papa a Bologna. Allora c'erano molto visibili come punto di riferimento le varie coccarde che uno si appuntava sul petto per esprimere un sentimento, no? Loro, De Rolandis e Zamboni, decidono di prendere un vessillo con i colori verde, bianco e rosso, non tanto in onore della bandiera francese, anche dalla quale tutto, no, dipende, perché Napoleone arriva in Italia, cerca certamente non di fare il nostro bene ma i suoi interessi, no? Però l'aspetto innovativo di Napoleone è anche quella nuova carta dei diritti civili che viene, cioè sono ovviamente aspetti estremamente positivi. Ma perché il bianco e il rosso sono i colori di Bologna, da dove appunto doveva nascere questa sommossa, e il verde è il colore della speranza, e quindi la speranza è un qualche cosa di diverso. Ecco, i nostri tre colori nascono così. Poi si rafforzano negli anni, De Rolandis e Zamboni vengono fatti prigionieri perché quella sommossa fallisce, sono vittime praticamente di un tradimento, quindi scappano sui monti della tua Toscana, lì vengono fatti prigionieri, subiscono una fine atroce, chi prima, chi dopo, e nel 1797, nel gennaio del 97, in occasione della prima riunione del Parlamento della Repubblica Cispadana, viene deciso appunto, che viene deciso, promosso dal deputato Compagnoni, e all'unanimità l'Assemblea vota, viene deciso che la bandiera dei tre colori è quella che rappresenterà praticamente il movimento italiano di, chiamiamolo oggi, unità. Sì. No, era un'unità ovviamente che ancora forse non c'era nella mente, no, ma era di liberazione, no? E ovviamente nel libro sono riprodotte più di 50 immagini di vari vessilli e bandiere, e c'è anche l'immagine della prima bandiera praticamente della Repubblica Cispadana, che questa qui è anche in copertina praticamente, e come vedete la composizione della bandiera, il rosso, il bianco e il verde, non è la composizione attuale, nel senso che non sono in verticale, sono in orizzontale i colori, il rosso è sopra, no? Il bianco rimane in mezzo e il verde sotto, e praticamente in questa bandiera c'è all'interno, oltre l'ulivo eccetera, un turcasso, ovvero una faretra con 4 frecce interne che sono le 4 città che compongono la Repubblica Cispadana. Quindi Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Molti sono convinti che la prima bandiera italiana sia emersa con la Repubblica Cisalpina, che è un prodotto dell'unione fra la Repubblica Cispadana e la Repubblica Transpadana. In realtà non è così, però questo ci viene da credere più delle volte, perché la bandiera della Repubblica Cisalpina, che nasce nel luglio del 97, quindi sette mesi dopo dalla formazione della Repubblica Transpadana e quindi dall'approvazione dei tre colori bianco, rosso e verde, fino al 1802, è similare alla bandiera italiana attuale. Quindi è di forma quadra, però già con i colori verticali e con il verde che è vicino all'asta, sostanzialmente. Poi dopo subirà altre trasformazioni, altri vessilli, no? Però ecco, ci saranno sempre questi tre colori che ormai faranno parte proprio della storia della nostra bandiera. Io mi aggancio a questa tua considerazione storica e lascio la politica, la polemica politica, anche no, se non è polemica. No, polemica. No, certo, polemica, diciamo, affettuosa. Il punto è questo, no? La bandiera si modifica, cioè non assume ha una fenomenologia mossa, cambia aspetto, configurazione, ci sono dei simboli oggi che se non li spieghi bene non vengono assolutamente capiti, anche a livello linguistico, faretra, io penso, dobbiamo fare un sondaggio e andiamo fuori quanti, se gli dici metti turcasso. Mano, è turcasso. Turcasso potrebbe generare addirittura. allora, però la bandiera è qualcosa di dinamico, di mosso, però tu chiaramente sembra, no, quasi che postuli o postuleresti una sorta di avvenuta stabilità o di auto, come dire, come se questa configurazione nazionale fosse eterna, fosse abbiamo raggiunto uno status che non abbandoniamo più, abbiamo trovato la stabilità della bandiera e una volta che la bandiera si è stabilizzata la nazione. Invece, ecco, il fatto che le bandiere cambino è un chiaro segno che anche le configurazioni politiche cambiano. Ora, secondo me, alla fine di questo anno, noi dovremmo, di ricorrenza del 150enario, e anche riflettendo sulle vicissitudini della bandiera e dei martiri e delle persone che hanno pagato con la vita la sua cucitura, dovremmo in qualche modo chiederci e darci una risposta con argomenti, non dicendo semplicemente stiamo così perché siamo così e basta. Cioè, quali sono, secondo te, le ragioni, le buone ragioni, le ragioni non sindacabili, ma non perché dobbiamo dirlo, ma perché è ragionevole dirlo, del mantenimento di questa unità, ovvero, e chiudo, di questa unità nei colori, diciamo. Di questa unità dei colori, ma anche dell'unità nazionale che la rispecchia. Perché dovremo noi eventualmente batterci ancora per non mandare tutto a sfacelo? Poi ti leggo una cosa magari alla fine interessante da questo punto di vista. E perché, per esempio, non dovremmo combattere per sciogliere la bandiera in una bandiera diversa, no? Adesso l'ideale europeo non è molto, non è molto, guardo già male. Sì, guardo male, non è, però diciamo anche in questo senso, cioè vedere la bandiera italiana non come un punto d'arrivo ma come un punto di partenza per qualcosa di ulteriore. Ma io lo vedo come punto di partenza questa bandiera, però non lo vedo come punto di arrivo. Tutte le cose, secondo me, nel momento in cui arrivano sono anche punto di partenza. Siamo tutti in stazioni di transito. Okay. Se tu non riesci a trasmettere i valori di questa bandiera, no? E allora fallisci nel tuo lavoro, diciamo, no? Di trasmissione di quello che significa la bandiera. Anche per questo il libro. Io credo che ci siano due cose, e qui torniamo a un discorso che avevamo toccato prima con Bossi. Io credo che ci siano due cose che non dovrebbero essere cambiate, almeno nella sostanza. La bandiera di una nazione e l'inno nazionale. Per me questi sono i due pilastri, comunque, no, che rappresentano la nazione. Peraltro, mi piace anche sottolineare come sia improprio parlare di 150 anni di unità d'Italia. Chiaro. Abbiamo dimenticato Osimo? Quando abbiamo regalato praticamente delle terre, no, alla Jugoslavia, cioè quello è avvenuto nel 76, non è avvenuto nel 1861. Se vogliamo, ci mettiamo dentro anche la questione della Grande Guerra e quindi l'Alto Adige che viene comunque annesso all'Italia. No? Allora, l'unità d'Italia, certo, la celebriamo nei suoi 150 anni, però ovviamente ci sono state poi terre, no, che noi abbiamo integrato nella nostra e abbiamo perso, no, come nella svendita proprio attraverso il trattato di Osimo. Per tornare a quello che dicevi tu, per me appunto cioè la bandiera è un punto di partenza proprio per far comprendere perché è giusto rispettarla, perché è giusto trasmetterla. Dietro questa storia, no, dietro c'è la composizione della nostra bandiera, non ci sono solo dei piccoli gesti, no, che possiamo aver fatto noi o che apparentemente sono tali. Ricordiamo il quadro di Edoardo Borrani, no, dove c'è quella ragazza che vicino alla finestra, no, cuce la bandiera italiana probabilmente per il suo bello che andrà a combattere il giorno dopo o a issare questa bandiera il giorno dopo. Sembra un piccolo gesto, ma non è un piccolo gesto. Però ci sono gesti anche ancora più significativi e ti faccio l'esempio di Casa Savoia. Casa Savoia, voi sapete, perché me lo insegnate voi, che le dinastie avevano una loro bandiera. Casa Savoia aveva una bandiera, non è un caso che il libro sia azzurro, la copertina sia azzurra e la mia cravatta oggi sia altrettanto. Non perché sia anche la tua, più blu, però. Quindi, blu, blu, no. Stavo dicendo non perché sia monarchico, ma visto che ce l'ha anche lui, siamo proprio tranquilli. Crediamo nella Repubblica. Però dico, cioè, Casa Savoia aveva una sua bandiera, aveva un suo vessillo che era tutto azzurro, no? E in alto a sinistra c'era il famoso scudo di Casa Savoia. Certo. Casa Savoia, proprio in uno spirito unitario, rinuncia a Casa Savoia, cioè che la storia dell'Italia è fatta di Casa Savoia, rinuncia al suo vessillo e dà mandato ad un tecnico di disegnare una nuova bandiera, no, per inseguire l'unità d'Italia, una bandiera che diventi ufficiale, e nasce quindi la bandiera con lo stemma Savoia in mezzo, però la bandiera con il bianco, rosso e verde. Ora, credo che questi siano verde, bianco, rosso, scusate. È più eufonico, che poi generalmente io dico verde, bianco, rosso, però non so perché mi sia venuto. Cosa che dice bianco, rosso e verde, giallo? Comunque, no? Allora, ci sono appunto esempi di questo genere, no, che sono significativi, cioè dinastie mondiali, no, che hanno rinunciato al loro bandiera, loro vessillo. Però tu dici, insomma, che questa bandiera potrebbe trasformarsi ancora per certi versi, cioè che non è in contraddizione con un processo di unificazione. Sai, io dico nei tre colori non può, per me non può modificarsi, perché i tre colori hanno un significato, che sono il significato della storia d'Italia, della storia patria, permettimi il termine. Sì. Va bene. Poi è chiaro che hanno modificato anche la bandiera della Romania dopo che hanno ammazzato Ceaușescu, no? Beh, che hanno torto, buco, che hanno tolto. C'è proprio il buco. E beh, poi adesso però non c'è più il buco, c'è solo il bianco, no? Mentre lì al centro ci stava. Così come alla bandiera americana, alla bandiera europea hanno aggiunto una stella quando si sono uniti dei nuovi stati. No, cioè, sono delle modifiche non sostanziali, significative ma non sostanziali. La bandiera italiana, secondo me, torno a ripetere, i tre colori sono quelli, perché sono peraltro i tre colori, cioè, che sono sempre stati riportati nei motti di Genova, nella Giovine Italia, no? Sì. Quindi non è che l'unica era la bandiera della Repubblica Romana, della prima Repubblica Romana, che era nera, bianca e rossa, no? Che era di fuori di ogni logica. No, prego, io ti facevo il discorso. Tu riporti sempre alla configurazione della bandiera, ma io ti cercavo di, come dire, se cambiasse la configurazione politica, cioè le ragioni per difendere una configurazione politica di questo tipo. Però adesso ti faccio una. Tu vorresti bene la bandiera rossa? No, mi permetto di scherzare con lui perché siamo su fronti esposti, però ci si trova. Io mi trovo molto in sintonia con lui, sì, e mi piace, sì, quando. Ma io poi non è neanche vero che il coltivo. coltivo, come dire, bene, simpatie. Se no finì che faccio l'intervista a lui. No, per carità. Magari se scriverò un libro ti chiamo a presentare. No, c'è un punto secondo me nodale che tu secondo me difendi sempre molto bene e lo fai con rigore istituzionale, cosa che secondo me è bene darti atto, perché non è neanche comune il rigore istituzionale, cioè la consapevolezza del ruolo istituzionale che si rappresenta. Tu lo fai anche in una terra di confine dove ovviamente questo è ancora più difficile, è ancora più difficile. Il punto è quello del come si evita il passo dalla difesa dell'identità, difesa buona dell'identità, anche diciamo dall'orgoglio legittimo della propria storia, della propria identità, la memoria delle persone che hanno fatto un paese, lo hanno reso quel che è, con difficoltà, con sangue, con opere. Come si evita il passaggio da questo tipo di sano, chiamiamolo, patriottismo a invece un atteggiamento che diventa di sciovinismo e entra necessariamente in conflitto con le altre identità? Cioè, come si difende il punto? Tu che hai esperienza di difesa di questo punto? Conoscendo la propria storia, le proprie identità, impari, secondo me, a rispettare di più le storie degli altri e le identità degli altri. Proprio perché noi siamo un popolo, così come tutti gli altri popoli, no? Che hanno una propria storia, no? C'è una storia di gente comunque pacifica, voglio dire, rispettosa. Poi certo ci possono essere gli alti e i bassi, i bravi e i buoni e i cattivi, no? Però io dico, è un po' come la religione, cioè se io conosco la storia della mia religione, allora mi rendo conto dei sacrifici che ci sono stati dietro quella religione, dei valori di quella religione, e posso apprezzare, comprendere, rispettare di più anche la religione degli altri, no? La stessa cosa vale per, tu dicevi appunto, non cadere nello sciovinismo. Io peraltro cito proprio questo passo qui, no? Parlando di riprendendo anche un passo di Papa Giovanni Paolo II, che nella sua Memoria e Identità dice: caratteristica del nazionalismo infatti è di riconoscere e perseguire soltanto il bene della propria nazione senza tener conto dei diritti delle altre, che era poi il sentimento di Nicolas Chauvin nella sua Esaltazione patriottica per le azioni di Napoleone. Chauvin, e da Chauvin viene sciovinismo, dove esalto me stesso e annullo e non voglio riconoscere gli altri. Penso che la cultura di tutti i popoli e di tutte le religioni sia invece quella comunque di rispettare anche l'altro. Purtroppo noi bisogna lavorare ancora molto per convincere coloro che oggi non credono in questo, e credono. E poi questa è la nostra terra, l'Alto Adige è proprio la nostra terra, che è un importante laboratorio per far comprendere l'importanza di tutte le realtà, no? Uh-huh. Culturali che ci sono. Non sto parlando di realtà etniche, parlo di realtà culturali, perché è un concetto ancora più ampio. Uh-huh. Tu sai la mia storia politica qual è, quindi sai quali erano gli slogan che potevo utilizzare quando ero nell'MSI, insomma, e via dicendo. Sono stati fatti dei passi in avanti perché si è imparato a rispettare, no? Proprio conoscendo quello che ci è stato tramandato dagli altri, no? Rispettare tutte le culture. È la sfida che noi ci troviamo ora di fronte. Forse non faccio contento qualcuno, ma non sono qui per far contento qualcuno. È anche quello di lavorare proprio grazie ai valori che trasmette anche la nostra bandiera sul rapporto con quelle nuove realtà che sono i cittadini stranieri. A me fai contento, sì. Lo so. Eh sì, però non lo so, insomma. Poi sto cercando di addolcirti. Siamo già contenti. Allora io adesso chiudo. Chiuderei, no? Anche per dare, abbiamo fatto 50 minuti, noi siamo di una bravura, ormai siamo un team, io direi ci potrebbero quasi su di noi, come team, no? Sì. Potrebbero sempre disponibile. Hanno bisogno di un nuovo cronometro. No, perché io sono abituato a scuola, so che dopo 50 minuti l'attenzione cade, tutti vengono tirati fuori il telefonino. I miei tempi era anche prima, Non posso dire prima, se no faccio bancarotta. Dico, dopo 50 minuti c'è fisiologicamente un calo d'attenzione. No, il richiamo a Papa Wojtyła mi ha colpito, anche perché devo dire quest'inverno, marzo, ancora inverno, primavera, vabbè, 17 marzo, quando a Bressanone, devo dire, in modo poco coraggioso, io ho preso in mano l'iniziativa di celebrare l'unità d'Italia nel menefreghismo totale, e chiamai un paio di amici, gentilissimo Hans Heiss, che fece un intervento straordinario, ottima da persona. Par suo, e Giorgio Mezzalira, e poi invitammo anche un rappresentante locale della Südtiroler Freiheit per avere un dibattito, che poi in realtà non avvenne, perché poi l'intervento di Hans fu assolutamente straordinario, al di là, diciamo, delle recriminazioni possibili di parti, insomma, avverse alla nostra, chiamiamola così. Comunque, lì avevo letto anch'io Memoria di identità ed ero stato molto colpito da questo sforzo del Papa di trovare questo nazionalismo sano, chiamiamolo così, nazionalismo sano, nemmeno nazionalismo. Questa identità sana, nazionale, che è diverso, un conto è l'identità nazionale, un conto è il nazionalismo. Sì, però appunto questo, e con questo proprio chiudiamo prima di dare la parola, il problema è, per certi versi, strano, no? Appoggiarsi sul Papa, che è rappresentante, da un lato, di un afflato universale, che uno potrebbe dire, io ingenuamente, prima di averlo letto, avrei detto, questo sicuramente, affrontando il tema della nazione, dice, le nazioni devono sciogliersi nella gloria di Dio, e invece col cavolo, nel senso, le nazioni portano alla gloria di Dio. Secondariamente la Chiesa cattolica ha svolto nel processo di unificazione, anche se i vescovi ogni tanto, certo che Pio IX non è stato un grande esempio di unificazione, appunto, ma diciamo ha sempre anche perché perdevano terre, perdevano prestigio, comunque non è stata, diciamo, una coabitazione tranquilla quella tra la Chiesa cattolica e le istituzioni prima monarchiche e poi repubblicane. Tu questa relazione, diciamo, dell'Italia cattolica la vedi? Sei affermi un'identità, diciamo, in un certo senso religiosa della nazione italiana, discorso delle radici, o sei più, diciamo, francesizzante, anche partendo dal fatto che sei partito con la presa della Bastiglia? Beh, potrei rispondere con una battuta, dopo i sorrisini di Sarkozy non sono certo francesizzante, ma non è questo, no. E io anche ho incontrato il Vescovo l'altro giorno, ho avuto il privilegio di incontrare il Papa due volte, il Papa Ratzinger, e io credo fermamente che alla base del nostro vivere quotidiano ci debba essere un rapporto con la propria fede religiosa. Il cristianesimo è stato l'unica vera rivoluzione degli ultimi 2000 anni, perché senza cristianesimo non ci sarebbe stato nemmeno il rispetto delle persone, di tutte le etnie, di uomo, donna, no? non ci sarebbero state le leggi che oggi ci sono. Il cristianesimo è venuto, è stata la più grande rivoluzione, non c'è stata altra rivoluzione così significativa. E quindi poi certamente c'è stata un'evoluzione. Io dico sempre che, e magari divago un attimo, il politico che è cattolico, no? Che crede nel Cristo, non può far finta di non esserlo solo perché fa il politico. Laicismo della politica e religiosità della persona devono in qualche maniera essere comunque assieme. E mi spavento quando trovo delle persone che vogliono i crocifissi nelle aule, e sono d'accordo, no, che ciò avvenga, e poi però vogliono negare, no, l'esistenza di altre religioni sul territorio e di sviluppare altre religioni sul territorio, perché o ci credi nella tua religione o non ci credi. Certamente, come dici tu, la Chiesa nella Unità d'Italia ha avuto un ruolo, no, più di ostacolo, Pio IX quando è andato a Gaeta, ormai alla fine, i Bersaglieri sono entrati in un stato pontificio scardinando la Portapia, voglio dire, Portapia non era una qualsiasi porta di Roma, era la porta dello stato pontificio. Non sono dire. Entrati bussando. Non sono entrati bussando, quindi il rapporto è, Pio IX era già fuggito a Gaeta da diverso tempo, insomma. Quindi voglio dire, la Chiesa non ha... la Chiesa, come chiunque, ha bisogno anche del proprio tempo. Se noi pensiamo alla Chiesa delle Crociate, certamente no, i Borgia non sono un grande esempio di Chiesa. Però ecco, tornando a noi, voglio dire, chi crede, no, nel Cristo, in quel messaggio che comunque c'è, non può far finta che non ci sia nulla dietro quello che noi facciamo. Qualche tempo fa, e poi veramente ti lascio, sì, dicevo, mia mamma era già malata, e dicevo, ma ci siamo ritrovati dei medici veramente bravissimi, confidiamo nei medici e nella Chiesa, no? E ci fu una interprete del Consiglio Provinciale che mi disse, no, vicepresidente, ero vicepresidente ancora fa, si ricordi che la mano dei medici è guidata dalla Chiesa e da Cristo, no? Quindi sapendo qual è il mio rapporto, no, con queste cose, ecco, quindi voglio dire, è importante comunque, no, questo insieme, perché fa parte della mia e della nostra cultura. Poi è vero che siamo forse il paese più scristianizzato d'Europa, nonostante abbiamo il Vaticano, ma questo è tutto un altro discorso. Certo. Andiamo a infilarci. Certo. Bene, io direi che questa prima parte, io faccio l'applauso a Mauro perché è stato e darei volentieri la parola a qualcuno se la vuole prendere, se no parto e vi leggo l'elogio dell'Italia disunita, così no. Prego. Non vorrei aver capito male, perché non so se l'argomento è un argomento politico. Lei ha premesso di condividere il non riconoscimento della bandiera e dell'inno. Ho sbagliato, ossia, no. Lei dice il vilipendio no, però ciascuno di noi ha il diritto di non riconoscere questi simboli. Faccio l'esempio, in campo sportivo, no? Mi pare che sia stato criticato un atleta altoatesino che però faceva parte della squadra italiana perché aveva cantato l'inno nazionale, oppure quell'altro che non lo cantava perché ha risposto io non conosco questa canzone. Ossia, io volevo in tutta onestà che lei mi dicesse personalmente, lei si spoglie dalla sua carica. Sì, ma io sono sempre molto sincero. Dipendio no, non riconoscimento sì, e allora non sono d'accordo. A parte che neanche noi italiani conosciamo tutte le strofe dell'inno italiano. No, venite a discutere. Beh, allora sono pochi gli italiani che conosco, tu le conosci, lo so, no, però no, io facevo riferimento a quello che ho detto prima anche in relazione proprio a alcune espressioni che ci sono state in questa nostra provincia. È proprio la diciamo cultura che ci tramanda la nostra bandiera, chi si è sacrificato per essa, ma non solo morendo, magari anche solo combattendo. È la cultura dei nostri soldati in Afghanistan o in Libano che sono andati per difendere questa bandiera e che magari sono anche morti, che mi fa dire e mi convince del fatto che io non posso costringere, perché i nostri soldati non vanno in Afghanistan per costringere ad apprezzare la bandiera italiana, non posso costringere qualcuno a vedere la bandiera italiana come la propria bandiera. Perché qualcuno si può non sentire legato, no, alla nostra bandiera, però io dico anche che queste persone, e non lo dico con polemica, ma proprio con come momento di riflessione anche con queste persone, io ne ho parlato con queste persone ovviamente, che poi sono ovviamente dei colleghi, no? Ai quali ho sottolineato il fatto che sono proprio i valori espressi dalla nostra bandiera che ha portato ad avere la tutela delle minoranze linguistiche, ma non solo in Alto Adige, anche in Val d'Aosta, se vogliamo, anche in Friuli, dove per esempio non è avvenuto il contrario. Adesso io non voglio polemizzare con la Jugoslavia o con il periodo di Tito, probabilmente i valori in quel paese, quando nel 76 abbiamo svenduto, no, le zone con il trattato di Osimo, lì la comunità italiana non è stata assolutamente tutelata, neanche dopo e anche prima, no? Lei credo che me lo possa insegnare questo, insomma. Diciamo anche alla Carinzia, allora. Ma guardi, sì, ci mettiamo dentro tutto. Ecco, io faccio proprio che io considero che i valori espressi da questa bandiera sono valori che mi hanno permesso, nella mia crescita anche come persona, ovviamente, di rispettare quelli che possono non riconoscersi in questa bandiera. Può darmi fastidio, può urtarmi, però questo non può permettere a me di chiudere. No? E non dovrebbe permettere a nessuno di chiudere la porta a queste persone. I tanti stranieri, ecco, non parliamo allora dei sudtirolesi, tanti stranieri che vengono qui e che prendono la cittadinanza italiana dopo 10 anni, ne conosco tanti che si sentono italiani a tutti gli effetti, e quando c'è Serbia, magari Italia, tifano Italia e non Serbia. Ma ce ne sono anche tanti per i quali, anche se hanno la nazionalità italiana, la bandiera loro è la bandiera del loro Stato, da dove provengono. Ecco, queste persone, come fai a volergli imporre, no, una bandiera che è tua? E non è stato neanche quello che ci avete insegnato, assolutamente. Ma proprio che ci avete insegnato le persone che ci hanno preceduto, che hanno fatto la storia più di me e di tanti altri, insomma. Mi fermo, sì. Non sono d'accordo, perché se uno è cittadino italiano è bello non essere d'accordo, salvaguardiamo la capacità di non essere d'accordo, sì, no, su quello siamo perfettamente d'accordo, siamo al limite, non sentire come propria quella bandiera, non sentire. Io per esempio non sento la bandiera del Pisa. Io sento quella della Lazio invece, anche se proprio non la sento. Vedi? No. Con tutto il rispetto, ma non la sento. Ci sono prego. Allora, partiamo dall'origine della bandiera. Io ho 4-5 cose, mica una cosa sola, non pensate di cavarla facilmente. A che ora chiudete voi? Mi conosce. Ecco. Su e cosa siete? Mi guarda me, io ho paura. Ah, non so. Anche io ho paura. Non so neanche me. Beh, insomma, su Conda Seta c'è un ostello dove c'è una dedica con su scritto: morir dovete in territorio strano, in guerra oscura per ignota mano, lascio il cuore alla terra amata per trarne la morale di una ballata. Data 1795. Poi ho voluto accertarmi perché hanno fatto questo, tutto quanto, praticamente era a ricordare, perché nel 1795 ci sono stati i principali scontri, diciamo, da quelli che venivano dal lato italiano con quelli che venivano dal lato francese. E su quello, così da quello che ho potuto ricavare, però, con tanto, tra virgolette, è venuto fuori che la bandiera italiana, sì, ha un'origine con la data che ha detto Minniti, però con un'impostazione un po' diversa, che io non l'ho visto, ma chi me l'ha riferito è una persona assolutamente affidabile, nel Museo della Storia di Milano fa proprio un riferimento all'origine della bandiera, che praticamente è antecedente a quella che fu la festa di Reggio Emilia dell'anniversario della bandiera, e coincidono le date 1794. Quindi questo è anche lì dire che sono stati quei due perché hanno preso quel riferimento. Attenzione, non confondiamo la bandiera con i colori, perché la bandiera di per sé stessa, scusami se ti interrompo, la bandiera di per sé stessa nasce nel 1797, 7 gennaio, quando praticamente c'è l'assemblea del Parlamento della Repubblica Cispadana, perché lì Compagnoni dice molto chiaramente, terzo richiesto quali siano i colori nazionali per formare una bandiera, si è risposto il verde, il bianco e il rosso, e questo è un documento che è presso l'archivio di Stato di Bologna. Diversi sono i colori, De Rolandis e Zamboni, loro hanno indicato questi tre colori, che poi Napoleone ha voluto condividere nel momento stesso in cui seppe, il giorno dopo che lui è arrivato in Italia, seppe che almeno Zamboni era già stato misteriosamente ucciso in una cella a Bologna, mentre quell'altro, il povero De Rolandis, morirà sostanzialmente di lebbra, ma viene impiccato lo stesso, no? Quindi loro stabiliscono i tre colori. La bandiera nasce nel 96. Sì, allora, se si prende il termine bandiera come simbolo, allora è un discorso, e allora lì si guarda quando è stato istituzionalmente stabilito, 1797. Esatto. Però se si prende la bandiera come l'insieme, e adesso voglio essere volgare, i tre pezzi di stoffa verde, bianco e rosso, unirli per fare un oggetto simbolico di qualche cosa, che poi sarà bandiera, che bandiera fa riferimento a Stato e Nazione, perché altrimenti... Infatti si parla di vessilli. Punto, bravo. Proprio per questo dico, allora, quello che mi hanno detto, che lì c'è una spiegazione, il Museo della Storia di Milano, che è poco visitato e poco conosciuto, di questo significato della storia, appunto, che dicono che praticamente lì danno come origine assoluto dei tre colori tre anni prima di quando è stata resa. Sì, tre anni prima è il 97, sì, quindi è il 94. Ecco, questo con Zamboni e De Rolandis. No, dopo si tratta di vedere se il tutto fa riferimento a quei due ragazzi o se fa riferimento a quello che a Col da Sieta hanno fatto quello stello. Col da Sieta, non so chi lo conosce. Ecco, praticamente si trova in Val di Susa, nella parte alta della Val di Susa, andando su. Praticamente è sopra il Notav, solamente che i Notav tengono sulla parte destra della valle, perché è lì che dove vogliono bucare. Questa è una questione di microfilologia. Sì, no, ma no. Vessillifera. Ecco, siccome mia natura è essere pignolo non è verosimile. Si trovano tante evocazioni dei tricolori anche prima, anche nella letteratura. Io prima mi sono preparato in Dante, addirittura c'è ovviamente in Dante, no? In Dante c'è tutto, c'è anche un verso del Purgatorio dove si parla della simbologia di tre colori. Quindi il discorso, secondo me, va difeso il discorso dell'ufficialità. Sì, no, d'accordo. No. Quello è antecedenti, vai a scavare, magari li troviamo anche nella tomba di Tutankhamon, in cui si prefigurava. Tra parentesi. Poi, il discorso che la bandiera venga vilipesa, malvista, più che vilipesa, malvista, neanche malvista, mal considerata, io direi. Dipende esclusivamente il riferimento tra quello che rappresenta la bandiera e il comportamento di una certa classe dei signori che occupano quelle cariche. No, perché io sono convinto che se tutti i politici avessero quella dignità che dovrebbero avere, quell'onore che dovrebbero avere, la bandiera sarebbe molto più rispettata. Poi il discorso che nel dopoguerra si è venuto fuori il cran cran, il periodo peggiore nei confronti della bandiera, forse per il ricordo che prima della guerra chi se ne serviva di quella bandiera non è che abbia portato tanto del bene. Abbiamo detto. Quindi tutte queste considerazioni. Poi andiamo all'inno nazionale. Però che tema non di stasera. No, siccome no, c'è un libro sull'inno nazionale, così proprio, potrei discutere. Perché a un certo punto, quando si dice perché non siamo popolo, perché siamo divisi, sì. Noi si continua a dire che siamo un popolo, ma nella realtà, guardiamoci in faccia, siamo un popolo veramente? Sì, ci sono delle buone ragioni per credere. Dalla vetta d'Italia... Ci sono delle buone ragioni. Come vogliono dire gli altri. Condividiamo molte cose, allora, abbiamo la stessa lingua. Questo è il concetto. Per cui anche quello di l'inno nazionale. Che non è tema di questo. È veramente un inno nazionale, sì, sarebbe interessante. Sarebbe è veramente un inno nazionale, è un qualche cosa che è stato adattato. Perché ad esempio la strofa. Beh, quella strofa qualcheduno la cantano, quando si tira su internet ci sono quelli che la cantano, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Ma l'ultima, quando dice è l'aquila d'Austria alle penne perdute, quella io non l'ho mai sentita cantare. Perché non ci si arriva mai lì, eh? Mi dispiace sì. Che venga fuori questo argomento stasera, perché noi in marzo... Scusi, basta. No, le dico anche perché proprio il 14-15 di marzo, se non mi ricordo, che abbiamo fatto una serata con un professore di antropologia e di storia moderna dell'Università di Verona, che aveva affrontato l'Unità d'Italia proprio dal punto di vista dei canti. Ecco, vedi? E era un approccio anche filologico e lei sarebbe stato soddisfatto perché sì, non sapevo che era l'abbiamo messo anche su sì sì beh ma sono temi che lei dimostra appunto possono essere anche avvincenti per quanto riguarda gli inni, però l'avevamo appunto affrontato in marzo ed era interessante vedere anche i canti dei soldati anche i canti popolari sì ma tutta una serie però vede, c'è una cosa da rilevare, che in questo territorio italiano, perché per definirlo tutto, ci sono delle provenienze, delle considerazioni che sono piuttosto malfatte. Perché incominciamo, io mi sono preso la briga di controllare se la montagna denominata Vetta d'Italia è proprio il punto più a nord dello Stato italiano. No. Non lo è. Su questo siamo tutti d'accordo, ma non tocchiamo questo punto perché sennò rimaniamo sulla bandiera. No, ma allora, no, un momento, questo lo dico, perché nell'istituzione che Presidente. Mi rappresenta Presidente. Vanno a discutere molto su questo fatto, quando quella è la cima più a nord tra le cime possibilmente raggiungibili dal versante del territorio italiano, perché la cima più a nord di pochi metri è lo Zwierlingkapo, che bisogna salirlo dall'Austria. Sì, la discussione comunque non è esattamente su questo, non questa nostra, quella lì dei nomi, perché comunque se lasciamo, se prendiamo nota sia del discorso canoro e del discorso delle montagne, che effettivamente è avvincente, io vorrei chiudere perché Valeria deve andare via, volevo che andassimo via, nel senso salutiamo, se c'è una domanda solo sulla bandiera e non che vada oltre, solo per questione diciamo di ordine, prego. Piccola, molto terra a terra, dopo discorsi così. Benissimo. Improvvisamente qualche anno fa qualcuno mi ha detto che il verde non era più quello. Sì. È stato un po' di discussione, mi sono sentito tradito, la mia non andava più bene. Poi si quasi si è dimenticato, il verde è tutto uguale. Ma cosa è successo? Ah, ecco, vede che crea un interessante punto di riflessione. Perché? No, è vero, perfettamente, noi ci siamo poi persi dietro un'altra cosa. Tanto per dimostrare come la bandiera italiana si è evoluta, no? Noi abbiamo sempre considerato i tre colori, verde, bianco e rosso, in maniera molto generica, no? Perché è sempre stato in maniera molto... Ma addirittura all'inizio la disposizione dei colori era generica, no? Abbiamo visto bandiere, anche la Giovine Italia, con il rosso sempre sopra, il bianco in mezzo, il verde sopra, eccetera. Le tonalità, eccetera. Nel 2002 e poi nel 2004 c'è stato un decreto del Presidente della Repubblica che dispone anche i colori della bandiera italiana, e il verde, no? è un verde Pantone tessile 176153 TCX. E poi indica anche il bianco, perché uno dice bianco, sì, però indica anche il bianco, che è un altro rosso Pantone, che è un altro colore Pantone, e anche il rosso. E poi viene definito, anche questa è una cosa interessante, perché molte istituzioni scolastiche, più che politiche, non lo conoscono, anche la disposizione della bandiera, quando viene esposta. Al di là del fatto che la bandiera non deve mai toccare terra, no? E che se il tempo è inclemente non deve mai essere issata, e se viene issata deve sempre essere accompagnata dall'inno nazionale, ma l'esposizione è importante, perché se ci sono per esempio tre bandiere, la bandiera italiana deve stare in mezzo, la prima a sinistra deve essere quella europea, e poi diciamo la terza è quella della regione o della provincia che si rappresenta. Oppure è quello che spesso il palazzo Widmann, la bandiera di mezzo manca. No, non manca mai, te lo posso assicurare, guarda, che quando ci stanno le sedute del consiglio, sì. E anche in altre occasioni il bianco, rosso e verde non manca mai ed è sempre al centro. E poi anche la disposizione proprio della bandiera, no? C'è scritto nel libro, se tu la metti fuori da un balcone, no? Se è lunga, no? Deve essere il verde sempre guardando a sinistra, il bianco e il rosso, se invece è una bandiera diciamo di forma rettangolare, allora c'è il verde sopra, il bianco c'è. Però questo è stato disposto poi con decreto appunto del Presidente della Repubblica solo nel 2002 e nel 2004. Quindi pensiamo come la nostra bandiera, che sostanzialmente è tanto vecchia, e il prossimo anno la nostra bandiera compie 215 anni, no? Che sarebbe anche quello un avvenimento da celebrare per me, poi non so se per altri anche, però sono i 215 anni, no? E in questo percorso noi abbiamo solo 10 anni fa stabilito quali debbano essere i colori della bandiera. Questo dimostra come sempre tutto è in evoluzione, come ci si dimentica sempre di qualche cosa, no? Ma come si vuole sempre più indicare come la nostra bandiera, no? Nella precisione dei valori che essa rappresenta. Se non vado errato, ne ho visto una anche romboidale. Di bandiera? Quella del Presidente della Repubblica. Beh, quella della Presidente della Repubblica, perché poi il Presidente della Repubblica, ci sono anche nel libro, il Presidente della Repubblica ha un suo vessillo, ci sono diversi vessilli, per esempio, no? Dove questa era la prima bandiera del Presidente della Repubblica, che poi è stata cancellata perché sembrava più quella del Messico. Poi abbiamo questa, si vede da lontano, sembrava quella del Messico perché al centro. Questa era un altro vessillo del Presidente della Repubblica, disposto da Saragat. Poi c'è stato questo di Cossiga, che come vedete riporta il blu non in onore di Savoia, ma in onore delle Forze Armate, perché il Presidente della Repubblica è anche capo delle Forze Armate, e riprende, no, la bandiera della Repubblica Cisalpina, che era in forma quadra. Poi abbiamo praticamente l'ultima bandiera, no? Questa qui, l'ultimo vessillo, che è quella romboidale, no? Che è l'attuale bandiera del Presidente della Repubblica, che caratterizza di più la carica istituzionale, perché è diversa appunto dalla... Però riprende questa bandiera qui, riprende un vecchio vessillo del italiano, che paradossalmente è uno dei vessilli della bandiera, cioè la bandiera della Repubblica Italiana dal 1802 al 1805, no, praticamente, che sostituì quella striscia verticali, e che poi Napoleone volle modificare mettendoci all'interno, non più in forma quadra ma in forma rettangolare, il suo stemma napoleonico. Quindi c'è un richiamo, no, del Presidente della Repubblica proprio a questa bandiera, no, nostra. Bene, io ringrazio l'ospitalità della dottoressa Trevisan, Gabriele, e voi della pazienza. Spero che l'applauso sia non perché è finita, ma perché vi sia piaciuto.